Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ecco, dico, veniamo in diretta, Maurizio, perché sì, più tardi ci sarà spazio per Claudio Valente, ma adesso vogliamo presentare veramente il primo ospite di questa sera che ci ha raggiunto telefonicamente per parlare del suo gruppo, dei Sursum Corda, e quindi diamo il benvenuto a Giampiero Sanzari. Buonasera, Giampiero. Buonasera a voi. Buonasera, Giampiero. Allora, come si sta dalle parti di Livorno, Giampiero? Bene, è una piccola città, c'è il mare, insomma, bene, sì. Sì, bene, quindi deve ancora arrivare la calca che tutti vogliono andare in Sardegna da quelle parti, no? È vero, sì, che... è una città di passaggio questa. Che sono sempre, sì, in effetti, tutti di passaggio, e poi, insomma, merita fermarsi a Livorno perché, insomma, è una città da vivere pure Livorno, Giampiero, cosa ne pensi? Sì, beh, Livorno è una città strana, nel senso che è stata completamente distrutta dalla guerra, quindi sì. È tutta ricostruita, però ha dei piccoli angoli molto interessanti che però non si vedono andando in Sardegna, purtroppo. Certo, è vero. E allora è proprio a Livorno che è nata la tua passione per la musica e l'aggregazione anche con gli altri elementi del gruppo a formare Sursum Corda. Sì, il gruppo è quasi interamente milanese, io sono l'unico di Livorno. Sì, alla fine ho trovato, diciamo, a Milano comunque delle persone che andavano bene per questo progetto. Beh, tutto nasce comunque dall'amicizia tra me e il chitarrista Piero Bruni, che comunque è per metà livornese anche lui, quindi insomma è stato tutto più facile alla fine. Cioè, lui è il Cirano, tu sei il Nero. Sì, abbiamo questi nomi strani, in effetti. E poi c'è anche Francesco, Emanuele, Fabio, che sono tutti protagonisti in questo album che stiamo presentando, Sursum Corda. Sì, assolutamente, sono un gruppo molto compatto, e ognuno dà veramente un contributo fondamentale, ecco, alla riuscita. Bene, allora in questa serata vogliamo partire parlando in particolare di quello che è il vostro ultimo lavoro, che ha un titolo davvero molto particolare. Si intitola La porta dietro la cascata. L'avete trovata voi? Beh, noi cerchiamo di aprirla tutti i giorni quella porta. Ah, bene. Avete la chiave, quindi. Sì, abbiamo la chiave, beh, ma alle volte si può aprire con una spallata oppure basta semplicemente girare la maniglia, insomma. Certo, ma come è nata questa avventura? È giusto ricordare che Sursum Corda aveva fatto un album nel 2004, vero? Sì, nel 2004 avevamo uscito con l'Albero dei Bradipi, che voi avete peraltro già passato. Cioè, sì, esattamente. Quello fu il disco di esordio, era un disco strano perché avevamo tantissime idee da mettere su questo supporto di plastica, diciamo. Sì, certo. E quindi, diciamo, abbiamo cercato di mettere tutto quello che avevamo, quindi è un disco molto spontaneo, però appunto, come tutti i dischi d'esordio, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Diciamo che nell'Albero dei Bradipi si vedeva più, diciamo, la tecnica, no? Quindi il saper innanzitutto suonare, mentre su questo c'è proprio un approfondimento, ma di quelli belli tosti, che divide, diciamo, le due opere. Sì, assolutamente, guarda, hai ragione, perché nel primo abbiamo valorizzato i singoli, quindi la tecnica, come dicevi tu, è diciamo l'espressione dei singoli che diventavano protagonisti, diciamo, a turno nel disco. Mentre invece nel secondo disco è un disco più di insieme, quindi più ragionato, più pensato, molto più concept, diciamo così. Quindi un album di un gruppo vero e proprio, allora, in questo caso. Sì, di un gruppo, e poi sono stati messi insieme più di 25 musicisti. È stato un lavoro molto duro, che ci ha impegnato quasi un anno e mezzo in studio di registrazione, perché proprio era difficile coordinare comunque musicisti che venivano da tutti i posti, sia geografici che musicali, quindi Sì, è stato un lavoro molto, molto, molto grande, era quello che volevamo fare, quindi è venuto un disco molto più ragionato per questo motivo, certo. Anche raffinato, però, parlavamo io e Flavio prima che cominciasse il programma, raffinato sì. Però con delle varianti melodiche che attirano immediatamente, secondo me, cosa dici? Sì, sì, assolutamente, perché guarda, il discorso è questo, che noi appunto, come dice già il titolo, no? questa cascata invita a non fermarsi di fronte alla bellezza, no? Ma ad affrontare la profondità, quindi per poter diciamo, mettere in musica questo concetto che poi alla fine colpisce un po' l'ascoltatore della musica in generale, perché la musica si può ascoltare in maniera superficiale o andare a diciamo, discernere ogni piccolo particolare, ci ha portato appunto a riunire tanti musicisti e a cercare di fare una composizione di tipo astrati, quindi ovviamente come dicevi prima tu ci sono delle, diciamo, delle melodie immediate che colpiscono subito e sotto poi però c'è un lavoro a livello di arrangiamento o di armonizzazione che invece è una cosa più per palati fini, diciamo così. Certo, assolutamente palati fini, poi naturalmente il disco è formato da due CD, il primo CD che porta anche musica e canzoni nell'insieme, il secondo CD dove invece c'è una sperimentazione diciamo importante, sempre diciamo sulla riga dettata dal primo CD, o sbaglio Giampiero? Sì, è così, infatti abbiamo chiamato Frattali, no? I brani strumentali sì. Del secondo CD per questo motivo, perché i frattali, ora è un'approssimazione del concetto geometrico di frattale che non sto adesso a raccontarvi, se no a noi i vostri telespettatori, ascoltatori, telespettatori sono altri. Perché praticamente cosa è successo? Che noi durante la fase compositiva abbiamo notato che la ricchezza dei suoni, degli arrangiamenti, di tutto quello che era il brano cantato, in realtà proprio per effetto di questo accumulo enorme diciamo avevano la pecca di nascondere delle armonie molto interessanti, molto belle e autonome, per cui nel secondo disco abbiamo cercato di valorizzarle con un lavoro sia in studio che di ulteriore arrangiamento e abbiamo dato praticamente vita a nuovi brani che poi in realtà un ascolto diciamo disattento sembrano diversi, in realtà sono frange, diciamo, appunto frattali, frazioni sì. del primo disco. Sono assolutamente delle frazioni perché ascoltandolo, e per questo vale la pena ascoltarlo in cuffia, soprattutto la seconda, diciamo, il secondo CD, si trovano questi pezzi che si dice ma dove li ho sentiti? E poi scopri di averli sentiti nel CD1, per cui ci vuole anche un buon, diciamo, lavoro anche di testa, ma soprattutto chi ha un orecchio fine questo lo gradirà assolutamente molto. Allora Giampiero, impariamo a conoscere un po' quella che è la musica di Sursum Corda e allora con che brano iniziamo, Maurizio? Mi pare il brano che ha questa attinenza alla Francia, mi pare molto bello, molto significativo. Abbiamo scelto quello, Giampiero, perché c'è ariosità, c'è accattivante nel senso positivo del termine, e la Francia fa bene alla salute musicamente parlando in questo pezzo. Allora l'ascoltiamo insieme qui all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, appunto Blu Radio Sera, e poi torneremo a commentarla assieme a Giampiero Sarzari dei Sursum Corda. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Raggiungerti. Tout le monde, les idées sont vraies. oceani ho attraversato per raggiungerti, pregando il vento che muove verso te. Con lo sguardo a un orizzonte implacabile, ferisce e poi decide. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qui, abbiamo ascoltato il primo pezzo di La porta dietro la cascata. Sursum Corda sono i protagonisti di questa sera alla Merci du Voyage, questa magica canzone che abbiamo ascoltato. Ed ora commentiamo insieme a Giampiero Sanzari, che è qui in diretta telefonica proprio per farci gustare ancora di più di quello che abbiamo già fatto, questo nuovo lavoro di Sursum Corda. Buonasera ancora Giampiero. Buonasera, eccoci qua. Allora, alla Merci du Voyage, già si parla di ospiti interessanti, di ospiti importanti che magari non hanno avuto grande breccia in Italia, però nel paese loro fanno bene. È vero? Beh, chi cantava con te, Giampiero? Questa è la cantante, si chiama Marie Pistoneau, di chiare origini italiane. Sì, certo. Però insomma ci mettiamo l'accento per dare un po' un piacere a questi francesi. Sì, ecco, sì. Sì, il gruppo si chiama Jabouz, poi hanno un altro gruppo anche, si chiama Marionelle, molto molto interessanti. Infatti magari vi spedirò un disco se vi va. Certo. È una cantante molto brava, il gruppo è un gruppo popolare di musica francese, un popolare francese, è stato molto bello l'approccio che abbiamo avuto con loro, perché ci siamo trovati veramente, abbiamo trovato molte cose in comune. Infatti il brano racconta proprio del fatto che la distanza non è, e la lontananza sono due concetti completamente diversi, e abbiamo, diciamo, trasportato questo concetto sul rapporto tra due nazioni, quindi tra Italia e Francia, quando ci sembrano così lontani, loro in realtà è soltanto un discorso chilometrico spesso. Quindi loro hanno apprezzato molto questa idea, quindi abbiamo deciso di dare dell'internazionalità anche, un elemento di internazionalità al disco, con questo brano molto molto, un po' francese, un po' italiano, insomma abbiamo cercato di usare gli ingredienti in un giusto equilibrio. Sì, diciamo che dà proprio un tocco internazionale, proprio con questo buon accordo, anche suonato tra altre cose anche dalla Marie, se non sbaglio. Sì, no? Sì, quindi... l'ha suonato lei, sì, è bravissima, fisarmonicista, cioè, lei praticamente quando canta suona contemporaneamente la fisarmonica, sì, insieme a suo marito Lionel che suona la chitarra, sono molto bravi. D'altra cosa sono andato a curiosare proprio su tua indicazione, Giampiero, nel sito di jabuz.fr, e devo dire che sono rimasto veramente positivamente condizionato dalla musica che propongono. D'altra cosa, all'interno del vostro lavoro, su Sumcorda, La porta dietro la cascata, c'è anche un bel libricino che porta sia diciamo i testi in italiano, o nel caso della Merci du Voyage in francese, ma anche tradotti in inglese, per dare un tono ancora più internazionale. Sì, sì, infatti noi, appunto, il primo disco fu addirittura stampato a Boston e distribuito dalla Passion Records, che è una piccola etichetta di Boston. È stranissimo, perché in Italia diciamo che non abbiamo avuto proposte interessanti, mentre invece noi sappiamo che gli americani, insomma, fanno presto, fanno 50-50. E, sì, indubbiamente. Ci è piaciuto subito, diciamo, la proposta che ci fece appunto Chris Florio, questo americano, anche lui di chiare origini italiane, come vedete che ricordo. Sì. La cosa strana è che noi, come sul Sumcorda, siamo catalogati come world music, quindi è una cosa molto strana, perché magari in Italia ovviamente ci mettono più nel campo cantautorale o del pop. In Italia classica, purtroppo, Giampiero, non si sa cosa vuol dire world music, sì, molte volte viene confusa. È quello, sì, infatti. Proprio, sì, è strano, cioè, poi le definizioni musicali, voi lo sapete meglio di me, sono sempre, no, molto soggettive, molto così. Noi siamo abituati anche con le recensioni che ci mettono un po' da tutte le parti, quindi va bene così. Certo. L'importante è che poi il disco venga ascoltato e venga amato soprattutto. E allora, Maurizio, cosa dici? Passiamo anche con l'ascolto di un altro pezzo. Sì, volevo solo chiedere un secondo a Giampiero il discorso degli strumenti inusuali, come il charango, il l'armonium, l'oboe non è inusuale, però non è che si senta spesso e volentieri. L'oboe, che l'oboe è un strumento meraviglioso, è un suono molto bello, molto decadente in alcuni momenti, cosa dici? Sì, è uno strumento che spesso è considerato decadente, è vero, però appunto come tutti gli strumenti a fiato, sai, dipende molto anche cioè è molto espressivo, quindi noi abbiamo, tra le altre cose, la nostra oboista è bravissima, Claudia Verdelocco, lei suona anche alla Scala, quindi è una persona bravissima, è riuscita proprio, cioè lei proprio riesce a fare con l'oboe delle cose splendide, ci ha seguito sempre fin dal primo disco, quindi l'oboe, ecco, è uno strumento molto particolare, classico, serioso in certi momenti, però è capace anche di essere quasi come un fagotto, come fa il fagotto, diciamo, ad essere più scherzoso, no, come strumento, e poi quindi versatile alla fine. E poi abbiamo trovato, il cristallarmonio è Gianfranco Grisi, è lo stesso cristallarmonista alla fine che ha suonato con Capossela, quindi molto molto bravo, molto ultimamente molto richiesto. Vogliamo spiegare, Giampiero, cristallarmonista? Sì. Cioè uno si immagina uno stuolo di bicchieri di cristallo, esatto, suonati, esatto, da cucchiaini. No, no, no, avete presente quando al ristorante qualcuno tenta sempre di far suonare il bordo del bicchiere? Bacio, e così via. Sì, esatto, e cerca di far uscire fuori quel sibilo, no? Sfregando col pastrello sul bordo. Ecco, lui riesce a farlo, ma con tutte le dita delle mani, quindi riesce a fare degli accordi sui bicchieri con una preparazione impressionante, tipo spalmandosi della calce viva sulle mani e riempiendo e accordando i bicchieri per un'ora e mezzo con dei misurini. È veramente una cosa stranissima. Deve approfittarne subito, voglio dire, questo Crystal armonista, perché non so se arriverà. Certo suo, perché è qualcosa di splendido. C'è gente che piange perché il suono è così penetrante, così, raggiunge delle frequenze così alte che in certe persone suscita il pianto. Proprio. Quindi è stranissimo, sì, è uno strumento bellissimo, tant'è che quando abbiamo saputo che lui era disponibile, quando l'abbiamo contattato, cioè per noi è stata proprio una svolta riguardo appunto all'Infinito, un brano che avete penso messo già in scaletta. Sì, abbiamo scelto, che è molto bello l'Infinito, ma ne parliamo quando sarà il momento. Sì, quindi uno strumento tra il violino e il Moog in questo caso. Vero, sì, hai ragione. Sì, ha un dire così. Sintetico in effetti. Sì. Cioè, a uno che non lo vede suonare può sembrare quasi un synth, sì, in certi momenti. Esatto. Però è uno strumento acustico come tutti gli altri, insomma. Benissimo, allora adesso per proseguire nella nostra scalata verso la conoscenza sempre più approfondita di questo vostro CD, che appunto ricordiamo agli ascoltatori chiamarsi La Porta Dietro la Cascata, andiamo ad ascoltarci anche la traccia numero 3, che ha un titolo insolito, divertente, ma allo stesso momento, ascoltando il testo della canzone, molto profondo. Indovina cosa andiamo ad ascoltare, Giampiero? Bambina che schiaccia Pinoli. Eccolo là, esatto. Benissimo, qui dalle frequenze di Blu Radio Veneto, e poi naturalmente più tardi Giampiero tornerà per commentare assieme a noi questo pezzo. A tra poco. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Che non c'è, si vedrà domani. quello che non c'è. Quello che sarà si vedrà domani. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Bambina che schiaccia i pinoli, un titolo davvero particolare, davvero interessante. La canzone è dei Sursum Corda, il disco, un doppio CD, si intitola La porta dietro la cascata, e lo stiamo commentando insieme dagli studi di Blu Radio Veneto, assieme a uno dei protagonisti di questo CD, Giampiero Sanzari. Eccolo qua ancora con noi. Un brano musicalmente molto molto bello, Giampiero, questo gioco con la chitarra, questo inserimento di uno strumento un po' più accentuato e poi un ritorno al quieto, al delicato per concludere in bellezza. Brano forse è musicalmente abbastanza complesso, vero Giampiero, nel costruirlo, nel farlo, nel crearlo? Sì, sì, noi lavoriamo molto con le immagini perché abbiamo fatto appunto diverse colonne sonore, no? Per documentari d'arte, anche d'attualità. Quindi questo è il brano forse sul quale abbiamo lavorato di più, collegato con un'immagine che avevamo in testa, che era questa, come questo piccolo quadro, no? Dove questa bambina schiacciava un pinolo, quindi cercava come un tesoro inestimabile in una cosa molto piccola. Quindi questo pensiero, questo concetto poetico, che è appunto il pensare alle cose, diciamo, non cioè pensare al fatto che le cose grandi, quindi alla grandezza, non dipende dalla dimensione, no, degli oggetti, ma dipende da altri valori. E in un campo poetico questo appunto succede, cioè che una piccola cosa può diventare una cosa di valore incredibile. Abbiamo appunto trasportato questo concetto poetico su questa immagine di questa bambina. Il brano è uno scurso, cioè è una sorta di situazione nella quale la bambina appunto esegue questa gestualità, poi arriva magari il genitore, quindi nel ritornello c'è questa fase in cui c'è la frase appunto quello che sarà si vedrà domani, e poi il finale è come se ci fosse una pioggia molto violenta e uno schiarimento dato dalle chitarre che è come un sole che arriva. Un concept, un pezzo che possiamo identificarlo come un concept pezzo, mi è consentita l'espressione. Tanti piccoli momenti in un 4-5 minuti di grande spessore, in ogni caso, anche se musicalmente è molto delicato alla fine, però riprendendo il discorso di prima, molto complesso, molto pieno di diversi strati, di diversi movimenti. Allora, vogliamo lasciare qualcosa ai nostri ascoltatori, oltre all'intervista che stiamo registrando e potremo inserire all'interno del nostro archivio, dove sono tutte le registrazioni di quelli che sono i nostri grandi appuntamenti live e interviste telefoniche di alto spessore, come in questo caso. E vogliamo dire, Giampiero, dove gli ascoltatori possono prendere maggiori informazioni riguardo al gruppo Sursum Corda? Sì, basta andare sul nostro sito ufficiale che è sursumcorda.it, tutta una parola, su questo sito si trova tutto, anche tutti i link per diventare nostri amici sui social network, siamo scritti praticamente dappertutto, nonostante con la tecnologia non è che siamo molto bravi, però insomma ultimamente ce la stiamo un po' cavando perché è inevitabile. E sì, e poi spero che insomma qualche vostro ascoltatore venga a sentirci appunto qualche concerto in Veneto, abbiamo diversi contatti, quindi prima o poi dovremmo venire, forse il concerto più vicino mi ricordavi prima tu nel Fuori Onda, sì. Montichiari, che è appunto un concerto a questo teatro Cinema Gloria, che peraltro è un teatro molto grande a Montichiari, sarà il 14 di maggio, quindi c'è tempo insomma per pensarci. Sì, sì. e, E questo sarà un concerto particolarmente interessante perché ci sarà l'unico, diciamo, della prima parte del tour ad avere la presenza del Crystal Armonio, quindi di Gianfranco Grisi, quindi sarà un po' un evento per noi perché è la prima volta che dal vivo suona con noi, sarà una cosa molto particolare con delle scenografie anche diverse dal solito, quindi dei giochi d'ombra, insomma è tutto, sarà un concerto molto sperimentale, quindi interessante. Giampiero, ricordiamo un momento l'etichetta e la produzione. Sì, dunque l'etichetta, la produzione è produttore artistico Fausto Dassé per la Dassé Sound Lab, mentre invece appunto questa produzione è in collaborazione con l'altra produzione che è l'Accademia del Suono, che è una scuola di Milano molto importante, di Timur Semprini. Poi vabbè, il disco è uscito per Egea, che come sappiamo è l'etichetta più importante in Italia per quanto riguarda la musica jazz e acustica, certo. Anche se non è una major, però un'etichetta indipendente ma molto molto grande. E poi poi siamo usciti in tutte le feltrinelle e nelle FNAC, quindi anche nei negozi di cordi si dovrebbe trovare il nostro disco, insomma, così ci hanno detto. Certo, quindi sarebbe stata la prossima domanda: dove trovare il disco, visto che sì, perché a volte anche musica di qualità non sempre tutti i negozi tengono, per cui o certo. Si deve prenotare o ci sono mille altre difficoltà oltre a quelle di farsi conoscere, anche quello di riuscire a reperire anche un disco davvero particolare e comunque sì. Merita di essere, diciamo, ascoltato, anzi prima acquistato poi ascoltato naturalmente possiamo garantire che è un lavoro veramente ben fatto. Allora Maurizio, noi andiamo adesso con l'ultimo pezzo, sì, che è infinito. Poi torneremo a commentarlo ancora, sì. Per l'ultimo intervento assieme a Giampiero Santari, anche se vorremmo stare qua tutta la sera a parlare con lui, e ascoltare veramente tutto il disco, però se insomma, volete mi potete richiamare un'altra volta, certo, certo questo lo faremo sicuramente Giampiero. Anzi, perché no? Bene, grazie. Allora Maurizio, come eravamo d'accordo prima, ascoltiamo l'infinito e poi torniamo a commentarlo, d'accordo Giampiero? Va bene, a dopo. Benissimo. Radio Sera. Blu Radio Sera. Il volo in stallo di un gabbiano, sguardo del pescatore, un generoso gesto in un giorno avaro che la preda vuol restituire al mare. Si muovono onde di mare giallo, di grano maturo percorso dal vento, in mezzo alla casa il calore di un fuoco. Regalo d'attesa per l'uomo che torna e tornerà, portando in mano qualcosa di grande. E tornerà, portando in mano qualcosa di grande. Gesto di dita intrecciate, il gioco puerile di anelli scambiate. Quel giorno d'estate la casa dei sogni aveva il riparo di un tetto di stelle e quelle promesse di baci d'inverno, no, non sarebbero finiti mai. Come due gabbiani in volo noi sospesi a attraverso il mare e tornerà portando in mano qualcosa di grande e tornerà portando in mano qualcosa di grande di grande. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato l'infinito, poi quelle note che sono state mixate quasi da infinito, era proprio una parte di quei frattali che avevamo enunciato prima. Ancora Giampiero con noi per parlare sul finale di quella che è la nostra preziosissima intervista. Allora, Giampiero, infinito. Come mai? Non è l'infinito dei leopardi questo? No, cioè, lungi da noi imbrattare la memoria di leopardi. No, nel senso che ha un qualcosa di diverso, ma soprattutto anche di messaggi positivi in questo caso. Sì, beh, infinito appunto è un po' il tema che c'era anche già nella Bambina di Schiacciapinoli, no? Che parlava appunto di grandezza e di dimensione. Anche qui c'è cioè, l'infinitamente grande, l'infinitamente piccolo si toccano in un ambiente poetico, quindi un gesto normale, banale se vogliamo, un oggetto comune come il palazzo, no? Come quel brano, un altro brano del nostro disco, può diventare diciamo una cosa importante, inestimabile se inserito in un contesto poetico, quindi questo è un po' lo stesso concetto, è una storia, una piccola storia nella quale appunto dei gesti comuni diventano di un valore altissimo. In questo disco, Giampiero, diventa fondamentale l'arrangiamento, decisamente. I pezzi sono arrangiati in una certa maniera e molto molto, diremmo, la base portante di tutti i brani, secondo me, dell'album, l'arrangiamento. Sì, sì, è una tecnica che noi, diciamo, abbiamo molto a cuore, il fatto di arricchire i brani senza sovraffollarli, cercando di mantenere un equilibrio. Appunto è un po' la stessa tecnica che si usa quando si fanno le colonne sonore anche di grandi film, no? Abbiamo questa nostra la caratteristica, infatti spesso hanno detto che facciamo, che so, colonne sonore cantate, insomma hanno cercato di definirci anche così, e in effetti ci sta, perché l'uso soprattutto di tanti strumenti tutti diversi, come mi ricordavi prima tu, appunto non c'è soltanto il cristallo armonio o l'oboe, ma ci sono, per dire, anche strumenti medievali come il dulcimer, il salterio, certo. Ci sono percussioni che vengono da tutto il mondo, appunto veramente percussioni di tutti i posti possibili e immaginabili, mischiate e unite da una melodia italiana, quindi diciamo questo è il nostro stile e l'arrangiamento è fondamentale. Bene, Giampiero, noi vorremmo sentire, come si diceva prima, tanto ancora del tuo disco. Mettiamo ancora più curiosità ai nostri ascoltatori dicendo che se vogliono capire qualcosa di più della vostra musica possono innanzitutto andare nelle vostre pagine internet, che sono le più varie, siete presenti in tutti i social network come si diceva prima, e in particolar modo nel vostro sito primario, quello ufficiale, che è, ricordiamolo Giampiero, sursumcorda.it. Sursumcorda, che non abbiamo detto prima, vuol dire in alto i cuori. In alto i cuori. Sì, o anche su con la vita. O su con la vita, nostri, giusto. Ci sta meglio, ci sta meglio. Benissimo, sì. Allora Giampiero, noi ti salutiamo, però vogliamo farti una sorpresa. Nel senso che vorremmo inserire un altro pezzo. Ne avevamo previsti tre, ma ne inseriamo un quarto. Bene, per far ascoltare contento. Ancora gli ascoltatori. allora direi quello che piaceva molto a Maurizio. Sì, quando ci eravamo contesi alcuni pezzi, allora lo inseriamo, anche perché effettivamente si trattava proprio di sceglierli, perché da buttare via non c'è neanche un quarto, non neanche uno, cioè proprio. E quindi ti ringraziamo per la musica che stai proponendo tu col tuo gruppo, e naturalmente speriamo di sentirci presto, Giampiero. Assolutamente, sì, teniamoci in contatto per qualsiasi cosa. Benissimo, okay. Allora ci ascoltiamo il palazzo e Giampiero, felicissima serata. Grazie Giampiero. Grazie a voi e buon lavoro, siete bravissimi. Oh, grazie. Ciao Giampiero. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Adesso io cerco, ma dove sei? Di giorno o di notte, ho lucidi occhi per te. Ma dove sei? Di giorno o di notte, ho lucidi occhi per te.